Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Ma prima di sentire il sommario di oggi voglio salutare la dottoressa Salmaso, direttore del centro di epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità, che è in linea con noi per spiegarci le ragioni che hanno portato l'OMS a innalzare a 6 il livello di allarme dell'influenza A causata dal virus H1N1. Dottoressa Salmaso, buongiorno e bentornata. Buongiorno a lei. Dottoressa, allora, Margaret Kahn, direttore generale dell'OMS, ha dichiarato lo stato di pandemia e ha aumentato il livello di allarme al massimo. Questa decisione in parte era attesa, ma sa che quando arrivano poi uno dice: come mai? Ecco, che è successo? Ecco, è successo semplicemente che intanto va detto che l'influenza è caratterizzata proprio da queste ondate epidemiche stagionali, ma poi una volta ogni 10-20 anni ci sono queste pandemie. Questa è la prima volta in cui c'è stata una sorta di osservazione scientifica e di graduazione formale per tutto il mondo in cui c'è la comunicazione dell'arrivo della pandemia. È la prima volta che succede, le altre volte non avevamo gli strumenti, ricordiamo che l'ultima pandemia che c'è stata è quella del 1969-70 e in quell'epoca non avevamo gli stessi strumenti che abbiamo oggi. Adesso invece abbiamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha preso atto del fatto che c'è questo virus che di cui abbiamo incominciato a parlare un mese fa circa, certo. Che essendo emerso in Messico, diffuso negli Stati Uniti, di fatto è risultato in qualche modo incontenibile. Non è un virus che fino adesso ha causato una malattia particolarmente severa, però è un virus che evidentemente ha trovato una ottima formula per diffondersi nella popolazione umana. Questa è la caratteristica delle pandemie e l'osservazione ultima è stata che è uscito alla grande dal continente americano, soprattutto legati ai viaggi, agli spostamenti ovviamente, certo. Che sono molto intensi. E lo stesso Organizzazione Mondiale della Sanità aveva indicato che la definizione di pandemia è quando ci sono almeno due regioni del mondo, per regioni si intendono praticamente i continenti, certo. In cui risulta una trasmissione sostenuta del nuovo virus influenzale. A questo punto, data l'ingresso alla grande in Australia, nelle Filippine, oltre che quindi nel continente americano, oltre a una serie di importazioni in altre zone, l'OMS ha dovuto prendere atto di questo e ha quindi dichiarato che effettivamente questo virus è in grado di produrre un'epidemia su scala mondiale, altresì detta pandemia. Dottore, è chiarissimo. Dottoressa, abbiamo capito. Però volevo chiederle una cosa. Si dice che ad esserne colpiti saranno soprattutto i giovani, a differenza di quello che succede con l'influenza stagionale. Come mai? Sì, diciamo che non tutto è noto, però sia studiando quello che è successo nelle pandemie precedenti, cioè nel 57, nel 70, in tutte queste ricorrenze, si è sempre visto che la popolazione giovane è quella che presenta dei tassi di attacco maggiori. In questo specifico frangente, poi essendo legati ai viaggi, per esempio, ai casi importati, è chiaro che si è diffuso di più nella popolazione che più viaggia. Quindi certo. In Italia, se lei va a vedere chi sono i 56 casi italiani, ma sicuramente questo è distorto dal fatto che sono quelli che hanno avuto l'occasione di essere esposti. Certo. Nel fatto specifico, nella situazione specifica invece di questo virus, questo è un virus H1N1 che sapevamo che per molti anni non ha assolutamente circolato un virus di questo tipo nella popolazione né animale né umana si pensa che i soggetti della popolazione nata, per esempio l'ultima grande circolazione è stata nel 57, tutte le persone nate prima del 57 magari hanno già avuto una contatto, qualche esposizione, sì. Esatto, e potrebbero non essere completamente suscettibili. Badiamo bene che stiamo parlando da una parte di dati basati sull'esperienza delle altre pandemie precedenti negli anni passati e dall'altra su supposizioni che ancora vanno confermate. Però noi sappiamo che quando esce un nuovo virus la popolazione giovane attiva è quella che normalmente viene più toccata. Dottoressa Salmaso, ci saranno scorte di vaccini per tutti o prevedete di contingentare i vaccini disponibili a sottogruppi della popolazione particolarmente a rischio e nel caso quali sono? Di queste cose credo che abbia già accennato il viceministro professor Fazio, in quanto sono tutte situazioni che sono ancora al vaglio di una definizione completa. Dire scorte di vaccino è già una definizione un po' difficile. Diciamo che anche da questo punto di vista, dato che l'OMS ci aveva messo sull'allarme da anni, ci sono vari settori della sanità pubblica e della produzione di strumenti di controllo che stanno lavorando da anni, quindi ad esempio anche a livello europeo, la stessa Agenzia Europea per i Medicinali e i Vaccini sta già valutando i dati scientifici portati dalle ditte produttrici di vaccini in modo da poter mettere sul mercato il prima possibile vaccini che sono tarati contro questo virus. Ricordiamoci che il virus, di nuovo, ne stiamo parlando da un mese a questa parte, ma che qualcosa sarebbe arrivato, quindi un lavoro preparatorio era già stato avviato da tempo. L'orientamento è che ovviamente non è pensabile avere la possibilità di vaccinare simultaneamente tutta la popolazione in tutte le parti del mondo dove serve. Quindi necessariamente sembra sensato fare una pianificazione dove i gruppi che hanno maggiore probabilità di esposizione o maggiore probabilità di rischio saranno quelli che riceveranno l'offerta vaccinale per primi. Dottoressa Salmaso, io la ringrazio per la sua chiarezza e vorrei fare anche un commento. Puntualmente mi arriva, quando parliamo di influenze, di soprattutto di questa pandemia, arriva sempre un messaggio: non spaventate la gente per nulla. Io credo che la dottoressa Salmaso ci ha dato sicuramente una mano, come il professor Fazio e tutti gli esperti che sono intervenuti. Stiamo informando, non stiamo spaventando. L'allarme è salito al 6, ma le ragioni sono state spiegate, quindi non devono allarmarci. Mi sembra che l'informazione corretta non porti mai l'allarme. Dottoressa Salmaso, non so se è d'accordo anche lei, ma mi premeva rispondere a questo ascoltatore anonimo. Sono assolutamente d'accordo. Io credo che vada sottolineato da più parti che la grande quantità di informazioni a cui adesso siamo esposti, ma che abbiamo invocato però tante volte per la massima trasparenza, perché ognuno di noi sia libero di decidere, non deve essere confuso con un messaggio di reazione, della richiesta di reazione da parte di tutti. Cioè, adesso esiste un'informazione, l'informazione viene data a tutti, ma ci sono alcuni, diciamo, target dell'informazione. In questo caso stiamo parlando di informazione a livello mondiale. Adesso l'informazione primariamente è diretta al governo, alle autorità sanitarie, a tutti quelli che possono mettere a punto strumenti per il controllo. Al cittadino è solo per renderlo informato di quello che sta succedendo nel resto del mondo, e perché quando poi gli verrà offerta di partecipare anche lui attivamente alle attività di prevenzione, capisca da dove nasce questa esigenza. Dottoressa Salmaso, grazie per essere stata con noi e anche di questa ulteriore precisazione che ci aiuta a fare chiarezza. Le auguro un buon lavoro e una buonissima giornata. Altrettanto, arrivederci. Adesso Giorgio Mattei regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, il dottor Confalonieri come sempre già qui, si è sentito tutte le informazioni della dottoressa Salmaso, l'ho visto molto attento. Siamo pronti per sentire i temi del giorno. Acqua, una splendida palestra per restare in forma. Giornata nazionale donatore di sangue, un gesto semplice che risolve situazioni difficili. Salute femminile, novità dalla ricerca. Bene bene, come avete sentito, oggi vi portiamo in piscina, almeno virtualmente, però sperando che in questo weekend che ci aspetta, tra l'altro è previsto un tempo magnifico, possiate farvi un tuffo. Subito i contatti per interagire con noi: 824 0024, i messaggi al 349 238 6666, l'email esserebenessere@radio24.it. Allora, dottor Confalonieri, lei con questo tema ci sguazza, va a nozze. Sì, sono cresciuto, ho lavorato e continuo a vivere soprattutto in piscina, quindi diciamo che è proprio il mio ambiente naturale, la piscina un po' in tutte le sue declinazioni, l'acqua in tutte le sue declinazioni. Dottore, però la piscina non è solo nuoto, no? Oggi cercheremo proprio di toccare diverse dimensioni per dare un quadro che possa essere il più completo possibile. Nel frattempo non le faccio fare le sue solite domande, se le può fare dopo, so che lei ci tiene in modo particolare, ma ci dia tre buone ragioni per entrare in piscina. Parleremo anche di mare, ma per il momento stiamo sulla piscina. Ma la prima ragione è che, come io ho detto altre volte, secondo me l'acqua è il gioco primordiale, il primo fra tutti i giochi, e quindi sicuramente andare in piscina è estremamente divertente, gratificante, piacevole, quindi ci fa stare bene perché consente a tutti, a tutte le età, di giocare e di ritrovare questo tipo di dimensione. In secondo luogo, passando a tematiche un po' più scientifiche, indubbiamente c'è il grande vantaggio di poter fare attività fisica in assenza di peso, in assenza di forza di gravità, e quindi eliminiamo tutte quelle controindicazioni collegate all'attività fisica, correlate appunto a problematiche di tipo articolare, muscolare o strutturale. Terzo, sicuramente in acqua noi utilizziamo la muscolatura in modo completo e globale, quindi l'allenamento è armonico ed impegniamo in modo importante il sistema cardiovascolare, quindi abbiamo effetti da un lato di tipo dimagrante e dall'altro di miglioramento dell'efficienza cardiaca e vascolare. Credo che possa bastare. Sì, direi di sì, ma ce lo diranno i nostri ascoltatori, a cui vogliamo chiedere se scelgono la piscina, se si trovano bene, perché la frequentano, cosa fa, come la usano, e anche il contrario, magari perché non riescono ad andare in piscina. Ci sono persone che hanno problemi con l'acqua, non hanno acquaticità, molte persone dicono non è la mia dimensione naturale, faccio fatica, subentro un po' di paura. Dottor Confalonieri, la sua domanda. Proprio molto direttamente, perché sì in piscina, quali sono i motivi per cui la preferite ad altre attività, oppure perché no? Perché al di là di tutti i vantaggi che ho esposto fino ad ora, preferite evitarla o non frequentate la piscina o comunque l'ambiente acquatico in genere. 800 24 0024, aspettiamo i vostri contributi anche al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso voltiamo pagina per parlare di una giornata particolarmente importante che si celebra questa domenica, domenica 14 di giugno. È la giornata nazionale del donatore di sangue e credo che questa sia un'occasione per sottolineare l'importanza di questo gesto così semplice, capace di risolvere situazioni a volte molto difficili. In linea con noi abbiamo il professor Giuliano Grazzini, direttore del Centro Nazionale Sangue, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno, che piacere, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a voi tutti. Professore, io inizierei con un ringraziamento speciale a tutti i donatori, invitando quelli occasionali a diventare abituali, ma soprattutto a contagiare amici, parenti, colleghi, a donare sangue, perché professore, nonostante gli italiani siano particolarmente generosi, va sempre comunque coltivata la cultura della donazione e voi lo fate. Assolutamente sì, la promozione lo stimolo alla donazione del sangue è uno degli obiettivi fondamentali del Centro Nazionale Sangue, in collaborazione con le grandi associazioni di volontariato di cui veramente molto fortunatamente noi godiamo in Italia. Abbiamo 4 grandi associazioni che sono quelle più importanti, l'Avis, la Fidas, la Fratres, la Croce Rossa e molte altre fra l'altro, che garantiscono tutti i giorni un grandissimo afflusso di donatori ai nostri servizi trasfusionali. Quindi anch'io mi associo al suo ringraziamento a nome di tutto il sistema trasfusionale italiano e credo di poter dire soprattutto a nome di quelle decine di migliaia di pazienti che ogni giorno ricevono le trasfusioni dal dono di queste persone. Professor Grazzini, ciclicamente, ne abbiamo parlato più volte insieme, si parla di carenza di sangue e a volte a sproposito, ma queste notizie, certo. Lei sa bene che in un periodo come quello che sta per arrivare, l'estate, in cui fisiologicamente il bisogno di sangue aumenta, queste notizie creano molta apprensione. Professore. Ma dunque sì, effettivamente anche del tutto recentemente c'è stata qualche segnalazione locale di carenza, ma uno dei nostri obiettivi come Centro Nazionale Sangue, in collaborazione con le regioni, con le associazioni del volontariato e con tutti i servizi trasfusionali italiani, uno dei nostri principali obiettivi è che queste carenze non si verifichino mai, né per le situazioni di emergenza, questo assolutamente, ma anche per evitare che vi siano rinvii di trattamenti, rinvii di interventi chirurgici, eccetera. È un obiettivo di un paese moderno, di un paese ad alto sviluppo economico questo. Peraltro, in relazione a quelle segnalazioni recenti, la rete trasfusionale nazionale, grazie alla collaborazione dei centri regionali di coordinamento per il sangue e delle associazioni, ha potuto far fronte immediatamente a questa carenza e stiamo quest'anno, facendo un piano particolare, speciale, che è oggetto peraltro di un decreto del Ministro della Salute che sarà adottato a brevissimo, che prevede che due regioni italiane, che saranno il Friuli Venezia Giulia per il centro nord e la Campania per il centro sud, quest'estate faranno da polmone, quindi avranno una riserva di scorte strategiche pronte per tutte le emergenze che dovessero verificarsi. Quindi, professor Grazzini, siete in grado di fronteggiare qualunque emergenza? Naturalmente l'invito è, prima di andare in vacanza, dopo aver fatto il tagliando della macchina, sì, fate bravissima. Un salto a donare. Ecco, mettiamolo un po' nel piano che ciascuno di noi scrive, no? Vado dal meccanico, faccio le valigie, vado a tagliarmi i capelli, dono sangue. Professore, però volevo chiederle un'ultima cosa. Il sangue che utilizziamo è tutto italiano oppure si riceve anche dall'estero? Perché anche questa è una notizia che si è letta e generato un po' scompiglio. Si leggono a volte alcune sciocchezze, purtroppo. Il sangue è assolutamente italiano, da un numero incredibile di anni non importiamo più sangue dall'estero, assolutamente. Forse si fa una certa confusione fra l'autosufficienza del sangue e l'autosufficienza di farmaci emoderivati. Per i farmaci che sono derivati dal plasma abbiamo ancora una dipendenza dalla rete commerciale, ma questo è abbastanza presente in tutti i paesi dell'Unione Europea delle nostre dimensioni. Quindi l'importante è, quando anche viene lanciata un'informazione, che sia corretta. In Italia noi abbiamo un'autosufficienza sostanziale per tutto l'anno, abbiamo dei momenti in cui si registrano alcune carenze e la rete nazionale è nata apposta e lavora apposta perché appositamente per fronteggiare queste situazioni. Professor Grazzini, io la ringrazio davvero per essere stato con noi. Nicoletta, per la trasmissione che è sempre molto bella ed efficace. Buona giornata, a presto professore. Grazie Nicoletta, salve, salve. Pronto soccorso. Splash! Dottor Confalonieri, sarebbe bello, eh? Eh sì, dai. Allora, abbiamo subito Moreno dalla provincia di Venezia che ci chiama. Buongiorno, Moreno. Buongiorno, dottoressa Nicoletta. Complimenti per la trasmissione che seguo sempre. Ascolti, io volevo porre questo interrogativo al dottor Confalonieri, che sono patito della corsa, della maratona, insomma io vado tutti i giorni, ecco, voi direte non c'entra niente con nuoto, ecco, ma però da 10 mesi circa ho ripreso ad andare per 3 volte la settimana in piscina. Sì. E questa cosa però mi ha causato un aumento di peso non abbastanza, insomma, influente, insomma, perché io ho 53 anni. Ho un fisico atletico, peso intorno ai 100 kg e sono aumentato di 7-8 kg insomma durante il periodo invernale. Sì. Io vado a correre 4 giorni a settimana e 3 adesso vado in piscina, mentre prima andavo 7 giorni su 7 a fare un'ora di corsa a 10 km. Sì. Forse Moreno, io sa che chiedo al dottor Confalonieri, ma le calorie che si consumano in acqua sono magari minori di quelle che si impiegano per correre? Ma indubbiamente un po' l'allenamento. Il discorso è valido relativamente, non proprio in assoluto, perché poi dipende dall'intensità a cui si corre e dall'intensità a cui si nuota. Però nel caso di Moreno, certamente l'ora di corsa, essendo abitualmente un corridore, uno che si dedica alle maratone, comportava un consumo calorico superiore all'ora di nuoto, e questo ha comportato, a parità di alimentazione, un aumento di peso. In minima parte poi l'aumento potrebbe essere anche legato a uno sviluppo della muscolatura della parte superiore del corpo, stimolata dal nuoto e non dalla corsa, e quindi questo è un aumento positivo, un aumento di tessuto muscolare e non di grasso. Quindi Moreno cosa deve fare? Continuare così? O... In assoluto direi di sì, per questo aumento di peso non credo che sia negativo, e l'allenamento incrociato ha degli effetti sulla salute superiori all'allenamento nella singola disciplina. Magnifico, andiamo a Giuseppe che ci chiama da Milano. Buongiorno Giuseppe, benvenuto. Buongiorno. Allora, la mia domanda riguarda il confronto fra pari spese calorie di una corsa o di nuoto. Supponiamo un'ora di nuoto o un'ora di corsa. Io in un'ora di corsa vedo la mia maglietta, mi accorgo di sudare. Se io nuoto, elimino la stessa quantità di liquidi o no? È chiara la domanda? Sì, mi sembra, almeno a me sembra chiara il dottor Confalonieri sicuramente. Dottore. Chiarissima. Innanzitutto non creare confusione tra il consumo calorico e la sudorazione. Il consumo calorico è una cosa, la sudorazione è una perdita di liquidi e non c'entra col consumo calorico. D'accordo, ma io se faccio lo stesso sforzo, a pari calorie che spendo in un modo o nell'altro. Esatto. Allora, il discorso della sudorazione, indubbiamente correndo c'è una sudorazione maggiore, in quanto la sudorazione serve a mantenere costante la temperatura corporea e la temperatura corporea tende a salire di più, soprattutto se si corre in ambiente caldo. Però si suda anche nuotando, per dire, un atleta di alto livello in due ore e mezza di allenamento arriva a perdere 1,5 kg di peso esclusivamente attraverso la sudorazione. Dottor Confalonieri, ci sono tantissimi messaggi, alcuni sono dei nostri ascoltatori che dicono: in piscina mi distendo, mi rilasso, mi piace, è un appuntamento che mi fa sentire bene, mi scioglie le tensioni. Altri invece sottolineano, come ad esempio fa Carlo da Bergamo, uno tra i tanti, lo leggo, è l'ultimo che è arrivato: stile libero, dorso per la schiena, ma ho difficoltà ad essere costante in piscina perché diventa noioso andare avanti e indietro da soli. Correndo almeno posso distrarmi parlando con il mio compagno, sentendo l'MP3. Allora, un po' che il nuoto sia un po' noioso, è vero o no? È vero, lo confermo. Diciamo che è uno sport in cui c'è da ritrovare un po' una dimensione individuale. Ci si raccoglie in un ambiente particolare come quello dell'acqua e si rimane soli con se stessi. Quindi certamente se uno ama fare sport con gli altri, condividendo l'esperienza, chiacchierando e conversando, è poco indicato per il nuoto. In piscina non si può parlare, nuotando non si può parlare. L'MP3 si può ascoltare, invece adesso ci sono diversi modelli che consentono di nuotare ascoltando la musica. Quindi se il problema è nuotare ascoltando musica, questo è risolvibile. Nuotare parlando con qualcun altro, un po' difficile, a meno che uno non sia una sirena. Torniamo a parlare di nuoto, uno sport adatto a tutti. Non è mai troppo tardi, dottor Confalonieri, possiamo dire così, si ricorda, per imparare? No, assolutamente, non ci sono proprio problemi. Voglio leggerle, perché questo mi è venuto da Fulvio, un sms che ci ha scritto: nel 99 ho iniziato a portare il terzo figlio al primo corso di nuoto, io avevo fatto corse e bici e non sapevo nuotare, e ho iniziato anch'io, buona idea. È stato un colpo di fulmine. Ora ho 49 anni e faccio gare di nuoto in acque libere. Quindi sì, direi che l'esperienza di Fulvio è un'esperienza comune a moltissimi che hanno la passione per lo sport, e in particolare per lo sport di resistenza, e quando scoprono il nuoto ci si buttano completamente e magari si mettono anche a fare attività master o attività agonistica in piscina o in acque libere. È proprio un'esperienza comune a tantissimi. Allora, e a volte, come appunto succede, si impara a nuotare proprio con i figli. Ma una mamma mi scrive: bimbo di 5 anni, facendo un corso è possibile che impari a nuotare o aiuta a prendere confidenza con l'acqua? Cosa dobbiamo aspettarci dai corsi di nuoto per i nostri bambini, dottor Confalonieri? Beh, diciamo che fino ai 6-7 anni l'obiettivo prioritario non è imparare a nuotare, ma imparare a muoversi nell'acqua in tutte le sue dimensioni, in superficie, in profondità, immergendosi, rimanendo fuori, perché questo migliora in modo significativo l'intelligenza motoria del bambino. Indubbiamente poi, esaurita questa fase, a 5 anni si può cominciare anche a imparare gli stili tradizionali, anche se normalmente l'obiettivo fondamentale dell'apprendimento degli stili tradizionali riguarda i corsi dai 6 anni in avanti. Se il bambino ha paura, si insiste o si temporeggia e si porta? Se il bambino ha paura bisogna insistere, secondo me, con i giusti modi, però riavvicinarlo all'acqua soltanto con un contatto iniziale, accompagnato, facendolo stare in piedi e facendogliela scoprire un pochettino alla volta, perché se si abbandona poi resta un fallimento e la volta dopo sarà ancora più difficile. Lei parlava di stili, dottor Confalonieri. Uno vale l'altro o alcuni sono più indicati di altri? Nel senso che magari molti messaggi mi dicono: mal di schiena, meglio dorso o meglio stile libero? Oppure rana, a chi è consigliata? Di solito è uno stile amato dalle donne. Sì, rana. Perché si illudono di rafforzare l'interno coscia. Ma no, perché quindi a me ad esempio viene più naturale, mi piace di più di stile libero. Bene, ecco, la parola forse naturale è molto importante. Io direi che bisognerebbe cercare di privilegiare lo stile che nuotiamo con minori difficoltà e con minore fatica, perché in questo modo riusciamo a nuotare a lungo e riusciamo a far sì che l'allenamento sia efficace, sia efficiente. Quindi il primo criterio di scelta è: qual è lo stile che faccio meglio? Mi concentro su quello e poi gradualmente, eventualmente, imparo gli altri. dal punto di vista delle controindicazioni, indubbiamente la rana è più facile da un punto di vista della respirazione, però è più difficile da un punto di vista della coordinazione gambe e braccia, e soprattutto comporta un sovraccarico a livello delle anche, a livello delle ginocchia, a livello della colonna un po' maggiore rispetto allo stile libero al dorso, quindi da questo punto di vista potrebbe essere meno indicato. Abbiamo due ospiti che ci attendono, ma volevo farle ancora una domanda, perché stavo pensando, tutti bene o male siamo capaci di correre, non tutti sono capaci di nuotare con altrettanta facilità, allora soprattutto per i tempi, allora come fare per riuscire a raggiungere nel nuoto tempi di allenamento efficaci? Perché mezz'ora prima o poi di corsa uno ci arriva, certo, mezz'ora di piscina ti ammazza. Il nuoto continuativo è praticamente impossibile per la quasi totalità delle persone. Allora ci sono due segreti. Il primo l'ho quasi accennato. Scegliete e specializzatevi in uno stile senza impazzire per impararli tutti. Questo vi consentirà di nuotare di più, più a lungo e in modo più efficace. Secondo, non abbiate paura delle pause brevi. Pause brevi, anche fatte ogni vasca, ogni due vasche, parlo di 10-15 secondi, non pregiudicano l'efficacia dell'allenamento, anzi, e ci consentono di fare uno sforzo intervallato ma continuativo anche di 30-40 minuti che risulta molto molto efficace. Oltretutto ci consentono di guardarci in giro, relazionarci un minimo con l'ambiente esterno e magari annoiarci un po' di meno. Allora, in linea con noi ci ha raggiunto Roberto Conti, che è docente per il CONI di corsi di formazione per istruttori di Hydrobike. Buongiorno dottor Conti. Buongiorno a voi. E abbiamo anche Paolo Michieletto, docente presso la Scuola Universitaria Interfacoltà di Scienze Motorie di Torino delle materie fitness in acqua. Quindi due esperti che aiuteranno il dottor Franco Confalonieri a spiegarci le opportunità, le altre opportunità che possiamo sfruttare in piscina, e inizierei con l'acqua fitness. Dottor Michieletto. Buongiorno. Ma cosa possiamo dire? Beh, è un'attività forse di natura leggermente recente, anche se in realtà è da sempre che ci si muove nell'acqua. Si sono sfruttate le qualità che l'acqua fornisce in assoluto, quindi l'assenza, o meglio ancora la limitazione del peso delle persone, le articolazioni un pochettino più libere, la sensazione di leggerezza e di bellezza data dal movimento in acqua. Di lì, nel corso degli anni, si è sviluppato un discorso legato a quella che noi chiamiamo comunemente acqua gym, oppure ginnastica in acqua, sotto varie forme di vario genere, ed ha permesso di far raggiungere quello che diceva il buon dottor Confalonieri, quel mondo così bello che è quello dell'acqua, anche quelle persone che purtroppo il nuoto, per tanti motivi anche storici, non erano mai riusciti ad avvicinare le piscine. Quindi si è potuto fare questa grande trasformazione dall'orizzontalità del movimento in piscina alla verticalità, e questo ha permesso a tante persone anche di una certa età di cominciare a usufruire dei benefici che l'acqua fornisce. Quindi questa è stata forse la più grande rivoluzione del mondo delle piscine negli ultimi 15-20 anni fondamentalmente. Si può bisogna sempre fare dei corsi o ci si può in qualche modo attrezzare? Da un punto di vista delle persone che vanno in piscina o come sì, insegnanti? No, io parlo dei nostri ascoltatori che vanno, scendono in piscina e vogliono provare quest'acqua gym, acqua fitness. Ma guarda, io posso sempre suggerire che i movimenti, quando sono sconosciuti, l'improvvisazione è sempre un pochettino lasciata anche al buon senso delle persone, e quindi potrebbe esserci e non esserci. L'importante è magari partire da movimenti semplici, quali la corsa, gli spostamenti laterali, le elevazioni delle gambe, in modo tale da aumentare quello che è il primo beneficio dell'acqua che può fornire alle persone di solito, diciamo, di sesso femminile, quello che è la circolazione, attivare la circolazione, attivare un risveglio, definiamo muscolare, non la tonificazione, che è una parola un po' curiosa, ma proprio la ripresa del movimento a tutti gli effetti, che possa essere avvantaggiato. Il mondo del ad esempio, adesso che arriva la stagione estiva, sulle spiagge eccetera, non è assolutamente sconsigliato, anzi sarebbe addirittura consigliabile cominciare a fare del movimento in mare, quindi camminare, sì, cominciare ad andare in posizione un pochettino più, diciamo, dove l'acqua è più alta, cominciare a correre, cominciare a mettere in movimento tutte quelle articolazioni che normalmente sono sollecitate. Le lasciamo a riposo. Dottor Confalonieri, voleva intervenire? Sì, volevo fare poi una... Poi passiamo all'hydrobike. Sì, volevo fare una domanda a Micheletto, che poi introduce, credo, indirettamente il problema dell'hydrobike. Perché Agli inizi l'acqua fitness o il fitness acquatico era soprattutto muoversi in acqua in verticale, con o senza la musica o con un ausilio più o meno diretto dalla musica, ma in modo libero e spontaneo. Ultimamente si stanno diffondendo numerosissimi attrezzi, dai più piccoli ai più grandi, come l'hydrobike, di cui parleremo poi, o il treadmill, il tappeto in acqua e quant'altro. Ecco, volevo avere una sua opinione rispetto a questa nuova moda. È così necessario utilizzare questi strumenti così evoluti in acqua? Hanno portato un reale beneficio? Oppure rispondono di più a una moda e non c'è questa reale esigenza? Perché molti ascoltatori sono interessati a questa nuova frontiera del fitness acquatico. Sottile il dottor Confalonieri, le ha sfoderato una domanda un po'... Una domanda molto interessante, peraltro io trovo molto, molto interessante anche proprio come considerazione, cioè... Il punto è questo, è come andare a correre all'aria aperta o correre su un tapis roulant. Fondamentalmente gli oggetti ti permettono un maggiore controllo sull'esecuzione di un gesto e quindi può darti una quantificazione, diciamo, almeno più precisa in una fase iniziale o addirittura esattamente all'opposto in una fase più di specificità. L'importante è non dimenticarsi mai l'utilizzo e l'impiego dell'attività in acqua, che ha delle caratteristiche sue, sia di intensità sia di velocità di esecuzione del gesto, e anche tipo diverso proprio di apporti, di ripercussioni sull'apparato osteoarticolare, su quello che potrebbe essere anche l'aspetto muscolare stesso. Quindi gli oggetti, se sono ben utilizzati, sono assolutamente un di più positivo, ma senza trascurare il fatto che esiste già lo strumento principale, che è quello dell'acqua. Certo. Gli oggetti diversificano quel discorso prima che si parlava del mondo del nuoto, che purtroppo andando su e giù può rischiare di annoiare. Lo stesso discorso può succedere anche nel mondo del fitness in acqua, quindi di fare più o meno sempre le stesse cose. Quindi la variabile oggetto, attrezzo che può funzionare ed è a questo punto necessario, però essere bene addestrati da un insegnante che possa dire cosa fare. Certo, per differenziare anche un po' i movimenti. Ma mi chiedevo, prima di andare alle strade, volevo chiedere al dottor Conti se l'hydrobike, vedremo poi perché e a chi può essere utile, ma è noiosa o è divertente? Ma principalmente l'attività con la musica è principalmente divertente. L'attrezzo della bike in acqua è tutto un attrezzo da scoprire per tutti i suoi elementi e soprattutto perché l'acqua con la bici si uniscono unendo una cosa che il ciclista fondamentalmente non ha, cioè il ciclista pedala lavorando principalmente per gli arti inferiori, mentre per quel che riguarda il ciclista da acquatico, sì, ha l'opportunità di poter giocare, tra virgolette, allenare e tonificare quello che è anche la parte superiore, che viene a intervenire con movimenti a ritmo un po' più divertenti e anche che, nello stesso tempo, che cercano a stimolare il fatto che la pedalata in un elemento, tra virgolette, statico, perché la bici non ha nessun movimento, sì, perché è perfettamente appoggiata al piano vasca, rimane a dare quel gioco, quel divertimento, per cui il divertimento può essere abbinato a questo movimento complesso, quindi una gamba rotatoria in un movimento ciclico con più ritmi, ma le braccia possono altresì dare delle belle varianti. 824 0024 se volete sapere come utilizzare l'acqua per allenarvi e mantenervi in forma, ma prima andiamo al nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola Pressione alta e disturbi delle vene. Per ricevere questo libro dovete essere però il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it, titolo del libro, recapiti e numero di telefono, e vi anticipo che proprio nella puntata di lunedì parleremo di gambe che al caldo soffrono un po'. Quindi se siete interessati, lunedì appuntamento gambe. In collaborazione con IBS.it. Michele, eccoci a lei. Mi scuso per il ritardo, ma qua chiacchierano e... Bene, ci racconti lei. La mia domanda è questa. Volevo chiedere al dottore. Mio figlio svolge l'attività agonistica di nuoto pinnato da parecchi anni ormai. Sì. Per questo tipo di sport ci sono controindicazioni sulla colonna oppure su altro tipo di muscoli? O Grazie, Michele. No, cosa pensa il dottore di questo tipo di attività? Vabbè, grazie, Michele. Dottor Confalonieri. No, direi che controindicazioni significative non esistono. Indubbiamente, rispetto al nuoto classico, c'è uno sviluppo prevalente della muscolatura delle gambe rispetto a quella delle braccia, perché è ovvio che il lavoro è esclusivamente a carico delle gambe. Potrebbero esserci dei sovraccarichi a livello della colonna, però se la biomeccanica del gesto è corretta, questi possono essere evitati, ed anzi diventa un'attività che potenzia in modo importante tutta la muscolatura posteriore e quindi ha una bella funzione preventiva anche in prospettiva dell'età adulta e dell'invecchiamento. Andiamo a Roma, ci aspetta Nadia, 800 24 00 24. Buongiorno Nadia. Buongiorno. Io volevo dire questa mia esperienza. Mi piace moltissimo il nuoto, però ho dovuto rinunciare perché andando in piscina, soprattutto in inverno, poi mi ammalavo sempre, mal di gola. Sì. E quindi niente, ho dovuto rinunciare. Penso che sia anche una cosa abbastanza frequente. Quindi adesso sta lontana dalle piscine, ma adesso che fa caldo si può rituffare, Nadia. Allora vado al mare. Fa bene, certo. Sì, sì. Rimanevo addirittura senza voce completamente. Non sono l'unica persona che... soprattutto molte mamme, ad esempio, hanno un po' timore di portare i bambini in piscina d'estate, d'inverno, proprio perché si ammalano. Nadia, però le auguro dei buoni weekend al mare e sguazzare. Vada lei, si tuffi anche lei per noi. Grazie Nadia. Andiamo a Wanda che ci chiama da Roma. Buongiorno Wanda. Buongiorno. Vi ringrazio prima di tutto di avermi richiamato. Grazie. Senta, io sono 4-5 anni che faccio acqua gym, sì, in una piscina qui, e mi trovo molto bene, anche perché è molto adatta per parlare insieme, insomma, di stare questo insieme alle persone. E poi più che altro adesso la mia richiesta era questa: sapere se il nuovo tipo di, appunto, di come si chiama, idrobike è adatta a una persona che come me c'ha 72 anni. Però Wanda, dalla voce non si direbbe, e poi mi piace Wanda che lei si tenga così in forma, magnifico. Sì. Dottor Conti, Wanda, la mandiamo a fare idrobike? Ma perché no? Assolutamente, anche perché l'attività è indicata assolutamente perché non ha particolari picchi cardiaci o impegni tali per cui, anzi addirittura a volte, essendo un'attività che utilizza la bike, quindi abbiamo anche una parte seduta sul sellino, con questo lavoro ciclico e questo linfodrenaggio continuo delle gambe è ottimo. È logico che il docente che seguirà il suo corso dovrà avere una minima avvertenza a campionare la lezione su un target di una classe che magari potrebbe, certo, non essere proprio quella delle giovanissimissime, però dalla voce direi che siamo assolutamente in linea. Assolutamente, perché chi si muove non invecchia, almeno invecchia bene. Dottor Confalonieri, lei, so che a lei piace intrecciare le varie attività, sì, sportive, perché diventino complementari. Facciamoci aiutare anche dal dottor Conti e dal dottor Micheletto, in modo che facciamo un po' un piano di allenamento anche divertente per i nostri ascoltatori che amano l'acqua. Sì, io direi che la prospettiva potrebbe essere proprio quella di integrare il nuoto classico con l'acqua fitness o la ginnastica in acqua, quindi affrontare la piscina con l'idea di fare un po' di nuoto, così come si fa il cardio fitness in palestra, e integrarlo o con dei corsi o con dell'attività libera con gli attrezzi in acqua in verticale, che consentono di divertirsi e di potenziare la muscolatura in modo più specifico. Questo è un po' un messaggio che mando rispetto alle prospettive relative all'utilizzo dell'acqua. Dottor Micheletto, lei è d'accordo? Assolutamente sì, anzi una delle cose che avevamo pensato addirittura tanti anni fa, quando anche con il dottor Confalonieri si parlava, l'idea è proprio quella che secondo me non c'è, e credo che sia condivisibile, l'idea di un'attività giusta. Ci sono tante attività che insieme equilibrano tutte le esigenze del corpo, del nostro organismo e anche e soprattutto quelle mentali, quindi muoversi in un elemento che in questo caso è l'acqua, come potrebbero essere altre situazioni positive. Certo. L'acqua orizzontalizzata, diciamo, del nuoto sviluppa un certo tipo di abilità, l'acqua verticalizzata ripropone un po' le esigenze della vita quotidiana di tutti i giorni, quindi di muoversi, fortunatamente coi piedi per terra, e quindi anche l'articolazione andare a sollecitare in un modo, in maniera efficace, senza andare a rischiare dei sovraccarichi pericolosi per la colonna o per le altre parti. Le attrezzature e quello che è presente in piscina o anche solo a corpo libero permettono il rinforzo di parti muscolari importanti per la vita di quotidiana. Andiamo all'hydrobike con il dottor Conti. A chi e con quale sport abbinarla, dottor Conti? Assolutamente si può, naturalmente l'abbinata classica è pensare a uno sport di ciclismo, che sia di mountain bike o strada, che si va comunque a contrapporre allo stesso attrezzo in acqua. Però assolutamente, come dicevamo, essendoci l'utilizzo della parte superiore, si può abbinare assolutamente a tutto, anche perché più stimoli noi riceviamo a livello muscolare, più possiamo spaziare col corpo e quindi avere ottimi risultati, quindi rendere più efficace il nostro allenamento. Per cui non abbiamo un'abbinata vera e propria, perché sia il lavoro cardiovascolare sia il lavoro muscolare che vengono abbinate si combinano perfettamente, quindi più stimoli, più attività, è un po' come la dieta varia ed equilibrata, quindi tante attività sportive. Io ringrazio il dottor Micheletto e il dottor Conti che sono stati con noi, grazie per i consigli. Saluto anche il dottor Confalonieri, ma per metà, perché io vorrei fare un appello. Voglio invitare le mamme di bambini di età compresa tra gli 0 e 3 anni a visitare il blog www.blogmamma.it, perché ho bisogno di voi, della vostra collaborazione, per scegliere insieme il tema che tratteremo martedì 16 di giugno. È un appuntamento che vogliamo far diventare mensile, ma io ci tengo in modo particolare che siate voi mamme a decidere l'argomento che interessa di più mese dopo mese. Quindi andate su blogmamma.it e votate. Il tema più gettonato, vi vedrete che c'è una rosa di 4 temi, diventerà protagonista della puntata di martedì 16. Quindi aspetto i vostri voti. Dottor Confalonieri, io invece l'aspetto venerdì prossimo. Senz'altro, a risentirci con tutti. Per nuove entusiasmanti avventure sportive. Sportive. Domani vi aspetto per Questa casa non è un albergo, e lunedì ricordate Gambe dopo il GR delle 11. Buona giornata.